primo giorno della settimana Maria Maddalena si recò di buon mattino al sepolcro mentre era ancora buio e vide la pietra rimossa dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo che Gesù amava e disse loro: «Hanno portato via il Signore e non sappiamo dove l'abbiano posto». Partì dunque Pietro e anche l'altro discepolo e si avviarono verso il sepolcro. Correvano ambedue insieme, ma l'altro discepolo precedette Pietro nella corsa e arrivò primo al sepolcro. Chinatosi, vide le bende che giacevano distese, tuttavia non entrò. Arrivò poi anche Simon Pietro che lo seguiva ed entrò nel sepolcro. Vide le bende che giacevano distese e il sudario che era sopra il capo. Esso non stava assieme alle bende, ma a parte, ripiegato in un angolo. Allora entrò anche l'altro discepolo che era arrivato per primo al sepolcro e vide e credette. Non avevano infatti ancora capito la scrittura, che egli doveva risuscitare dai morti. I discepoli poi ritornarono a casa. Maria invece era rimasta presso il sepolcro, fuori, in pianto. Mentre piangeva, si chinò verso il sepolcro e vide due angeli bianco vestiti seduti, uno in corrispondenza del capo e l'altro dei piedi dove era stato posto il corpo di Gesù. Essi le dissero: «Donna, perché piangi?» Rispose loro: «Hanno portato via il mio Signore e non so dove l'abbiano posto». Detto ciò, si voltò indietro e vide Gesù che stava lì, ma non sapeva che era Gesù. Egli le disse: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?» Quella, pensando che fosse l'ortolano, rispose: «Signore, se lo hai portato via tu, dimmi dove lo hai posto e io andrò a prenderlo». Le disse Gesù: «Maria». Quella, voltatasi, gli disse in ebraico: «Rabbuni», che significa maestro. Gesù le disse: «Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre. Va piuttosto dai miei fratelli e di loro: salgo al Padre mio e Padre vostro, al Dio mio e Dio vostro». Maria Maddalena andò ad annunciare ai discepoli: «Ho visto il Signore e quanto le aveva detto». La sera di quello stesso giorno, il primo della settimana, mentre le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per paura dei giudei erano chiuse, venne Gesù, stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi». E detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. Si rallegrarono i discepoli, vedendo il Signore. Poi disse di nuovo: «Pace a voi. Come il Padre ha mandato me, così io mando voi». Detto ciò, soffiò su di loro e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A chi rimettete i peccati, sono loro rimessi. A chi li ritenete, sono ritenuti». Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dissero gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore». Ma egli rispose loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e non metto il mio dito nel segno dei chiodi, e non metto la mia mano nel suo fianco, non crederò». 8 giorni dopo i suoi discepoli erano di nuovo in casa, e Tommaso stava con loro. Viene Gesù a porte chiuse, stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi». Poi disse a Tommaso: «Metti il tuo dito qui e guarda le mie mani. Porgi la tua mano e mettila nel mio fianco, e non essere più incredulo, ma credente». Rispose Tommaso e gli disse: «Signore mio e Dio mio». Gli disse Gesù: «Perché mi hai visto, hai creduto? Beati coloro che hanno creduto senza vedere». Gesù, in presenza dei discepoli, fece ancora molti altri segni che non sono scritti in questo libro. Questi sono stati scritti affinché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e credendo abbiate la vita nel suo nome.